Storie italiane. Il contadino scaltro. C'era una volta un contadino che lavorava lontano dalla sua casa, nei campi di un ricco barone. Nel passato, bande di banditi si nascondevano nelle montagne che si ergevano dietro la pianura. Ma l'imperatore aveva mandato i suoi soldati a cercare e a uccidere i ladri. E ora la zona era tranquilla e silenziosa. Oddio! Un'altra arma? Ogni tanto, però, nei campi si potevano trovare vecchie armi delle battaglie passate. Un giorno, mentre stava tagliando un ceppo, il contadino trovò una borsa piena d'oro. Ah? Questo è oro? Il contadino in vita sua aveva visto solo monete d'argento e fu così sorpreso di trovare tutto quell'oro che quando iniziò a camminare verso casa era già buio. Cosa posso fare con tutto questo oro? Mentre tornava a casa, il contadino pensò ai problemi che questa improvvisa ricchezza poteva causargli. Ma come posso usare questo oro? Tutto ciò che si trova sul territorio del barone appartiene al barone. Per legge, il contadino doveva consegnare l'oro al barone. Il contadino decise che era molto più giusto per lui tenere il tesoro. Il barone ha comunque moltissimo. Io sono povero e ho bisogno di questi soldi più di lui, quindi li terrò. Ma... Si rese conto del rischio che avrebbe corso se qualcuno avesse scoperto la sua fortuna. Non devo parlarne a nessuno. Ma che mi dici di mia moglie? Non riesce a tenere la bocca chiusa o a tenere un segreto per niente al mondo. E non appena aprirà la bocca, sarò buttato in prigione. Adesso cosa devo fare? Pensò al problema più e più volte per trovare una soluzione. E la trovò. Così, prima di tornare a casa, lasciò la borsa piena d'oro in un cespuglio vicino ad alcuni alberi di pino e il giorno dopo, invece di andare a lavorare, andò al villaggio a comprare qualche bella trota, qualche ciambella e un coniglio. Nel pomeriggio andò a casa e disse a sua moglie: «Prendi il tuo cesto di vimini e vieni con me. Ieri è piovuto e il bosco è pieno di funghi. Dobbiamo andare a prenderli prima che lo faccia qualcun altro». «Ah, funghi! Andiamo, sbrigati!» La moglie, che amava i funghi, prese il suo cesto e seguì suo marito. Quando arrivarono nei boschi, il contadino corse da sua moglie gridando: «Guarda, guarda! Abbiamo trovato un albero di ciambelle!» E le mostrò i rami che aveva precedentemente riempito di ciambelle. «Oh! Oh mio Dio! Ciambelle sull'albero!» «Sì, chi l'avrebbe mai pensato? Ad ogni modo, vai a cercare i funghi nell'erba laggiù!» Sua moglie era stupita, ma rimase ancora più stupita quando, invece dei funghi, trovò trote nell'erba. «Guarda, caro, ci sono trote nell'erba!» «Oggi è il nostro giorno fortunato! Mio nonno ha sempre detto che tutti possono avere un giorno fortunato! Potremmo persino trovare un tesoro!» Oltre a essere una pettegola, la moglie del contadino era anche un po' sciocchina. Così credette al marito e ripeté mentre si guardava intorno: «Questo è il nostro giorno fortunato! Questo è il nostro giorno fortunato!» E continuò a cercare pesci nell'erba. Il cesto della donna era pieno di pesci ormai. Quando lei e suo marito raggiunsero le rive, il contadino corse davanti a lei, guardò nel boschetto e disse: «Ieri ho steso le mie reti e voglio controllare se ho pescato pesci o gamberetti». Pochi minuti dopo, la moglie sentì la voce eccitata del marito: «Corri e guarda cosa ho catturato! Che straordinaria fortuna! Ho pescato un coniglio!» Stavano tornando a casa e la moglie continuava a parlare eccitata della grande cena con le ciambelle, il pesce e il coniglio. Il contadino sorrise e disse: «Andiamo di nuovo nel bosco, potremmo trovare altre ciambelle». «Oh, sì, andiamo!» Andarono nel punto in cui il contadino aveva nascosto le sue monete d'oro. Il contadino fece finta di trovare qualcosa. Ah? Guarda qui! C'è una strana borsa e... è piena d'oro! Cosa? Cosa stai dicendo? Sì, immagino che questa sia una foresta incantata. Abbiamo trovato le ciambelle sugli alberi. Poi abbiamo trovato le trote nell'erba e ora l'oro! La povera donna era così eccitata che le lacrime le riempirono gli occhi. Non riuscì a pronunciare un'altra parola e declutì mentre toccava le monete scintillanti. Così tanto oro! E ora è nostro! Sì, cara! A casa, dopo cena, nessuno dei due poteva addormentarsi. Il contadino e sua moglie continuavano ad alzarsi per guardare il tesoro che avevano nascosto in un vecchio stivale. Il giorno dopo il contadino andò al lavoro, ma prima disse a sua moglie: «Non dire a nessuno di quello che è successo ieri!» «Certo che no! Non sono pazza!» E ripeté la stessa cosa ogni giorno. Ben presto, tuttavia, l'intero villaggio aveva sentito parlare del tesoro. Il contadino e sua moglie furono chiamati dal barone e quando entrarono per incontrarlo, il contadino cercò di stare dietro alla moglie. «Ho sentito che hai trovato un tesoro!» «Oh, certo, signore!» «Potresti dirmi dove e come?» «In una foresta incantata!» Sua moglie, su richiesta del barone, parlò prima delle ciambelle, poi delle trote nell'erba e infine del coniglio nel fiume. Nel frattempo, dietro di lei, il marito continuava a battersi la fronte con il dito, gesticolando verso il barone. Il barone iniziò a guardare la donna con pietà. «E poi scommetto che hai trovato anche un tesoro lì!» «Esatto, signore!» Il barone si rivolse al contadino e, battendo leggermente il dito sulla sua fronte, disse con simpatia: «Capisco cosa intendi. Sfortunatamente ho esattamente lo stesso problema con mia moglie.» Il contadino e sua moglie furono mandati a casa. Nessuno credette alla loro storia. E così lo scaltro contadino non andò in prigione e spese tutti i suoi soldi con saggezza.